Sì, sì. Prova il microfono. Che parla di amicizia. Quella che non ti lascia mai anche nei momenti di difficoltà. Conta sempre su chi ti vuole bene. Sempre. Vai, questo verso è per un grande amico, questo pezzo è per chi non ti ha mai tradito. Parlo di amicizia, di un forte sentimento, ma soprattutto di un percorso lento. Vivere giornate, momenti finiti, condividersi donne, nottate e segreti. Questo verso è per voi, i miei migliori amici, perché nella vita siate sempre felici. Tenete sempre duro e non mollate mai, lottate per ciò che volete, cancellate guai. Porto nel cuore il vostro sorriso, perché quando vedo buio è il mio paradiso. Parlo di attimi, di brutti momenti, perché senza di voi non sarei andato avanti. E così quando si fa scuro il mio cammino, io so che ho sempre voi qui vicino. Via da tutto questo e via da tutto il resto, via da questa vita e inventiamoci un pretesto. Se lei non ti capisce, se la tua rabbia cresce, ricorda che un amico sempre ci riesce a farti andare via, quindi prendi la sua scia. Magari non per molto, solo in un momento. Ricorda sempre che hai i tuoi amici accanto, per ritrovare il sorriso che la vita ti ha infranto. Sarò lì con te, se avrai bisogno di una mano ti starò vicino, anche se mi vedrà lontano, anche se non ti chiamo, se non ci sentiamo, non dimenticare mai quello che siamo. Adesso tendo la mia mano, ti dico ciò che sei per me in questo brano. Ascolta questo pezzo e ricorda i particolari, non dimenticare mai i nostri momenti migliori. E in ogni momento in cui ti sentirai distante, busso la mia porta e ti aprirò in un istante. Quindi prendi questo pezzo e sfrutta il momento. L'ho scritto per te perché so che hai talento. So che non è molto, è solo una canzone, ma se non parliamo in una lingua migliore, il mio bene è finito che ho nascosto in questa stanza. È per tutti voi, i miei compagni di un'infanzia. Via da tutto questo e via da tutto il resto, via da questa vita e inventiamoci un pretesto. Se lei non ti capisce, se la tua rabbia cresce, ricorda che un amico sempre ci riesce a farti andare via, quindi prendi la sua scia. Magari non per molto, solo in un momento. Ricorda sempre che hai i tuoi amici accanto, per ritrovare il sorriso che la vita ti ha infranto. Why you?